America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. All right, what a country and what a day. Today we are one step closer to tax relief for every American family. We are one step closer to better jobs and more opportunity. Paul Ryan, avete sentito, trionfante il presidente della Camera, perché ieri al voto complessivo, dopo il passaggio in commissione, la Camera ha approvato la proposta di riforma fiscale che prevede un taglio di 1.500 miliardi in 10 anni, con 227 voti favorevoli e 203 contrari. Ovviamente tutti i repubblicani hanno votato a favore. Tutto a posto? Beh, non esattamente, perché adesso occorre che questa proposta vada al Senato. Sappiamo che al Senato c'è un progetto diverso. Non sarà facile condurre il processo di riconciliazione. Detto questo, quella di ieri è comunque una buona notizia per i mercati, per il corporate world, per il mondo aziendale, lo è anche di conseguenza per il mercato, perché non so se ricordate, ma negli ultimi giorni abbiamo avuto perdite in borsa per 3 giorni di fila. C'era una forte preoccupazione, ve l'avevo anticipata, per una possibile correzione degli indici, anche del 10-15%. Ecco, questa paura ieri è rientrata del tutto, intanto per questo passo in avanti sulla riforma fiscale, ma anche perché continuano a venire notizie positive dal mondo imprenditoriale. Walmart, la grande catena di vendite al dettaglio, pensate, ha aumentato del 50% il fatturato di vendite elettroniche, le vendite di e-commerce. Questo vuol dire meno rischi di antimonopolio per Amazon.com, conferma che l'economia tira bene nei consumi, che è la componente essenziale, e che aziende come Walmart fanno benissimo. E che ha fatto Walmart? È aumentata del 9% in borsa, e quindi questo ha portato grande sollievo fra gli investitori. Di correzione non si parla più, almeno per ora. Il Dow Jones ha guadagnato quasi l'1%, 196 punti, l'S&P 500 di nuovo quasi l'1% e il Nasdaq addirittura l'1,30%. Ecco, io oggi però non vorrei parlarvi, diciamo, di notizie soltanto politiche economiche, vorrei fare una puntata molto particolare di sola andata. E dunque adesso fra poco passeremo a questo racconto. Prima voglio darvi un'ultima notizia, riguarda la presidenza italiana al Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Ieri è intervenuto Angelino Alfano, è una cosa molto importante questa, è una cosa storica perché avviene ogni 10-15 anni, e il ministro degli esteri è intervenuto al Consiglio di Sicurezza facendo un appello contro i ritardi sulla Libia. Allora, vi avevo detto che volevo ripartire con un solo andata, e questo è un solo andata un po' particolare sotto tanti punti di vista, perché riguarda un ragazzo, Emanuele Brignoli, il quale è venuto in America per fare esperienza di giornalismo, si è buttato, come dire, nel vuoto, ed è, beh, il vostro producer, perché ha lavorato qui per quasi 2 anni, e devo dire che senza di lui non so come avrei fatto questo programma, perché può sembrare semplice mettere in onda una cosa che dura 10 minuti, in realtà non lo è affatto. E dunque ho qui con me proprio Emanuele Brignoli. Buongiorno Mario. Allora, per una volta sei da questa parte della barricata e dunque intervistato, quindi senti come ci si sente un pochino su quella sedia. Però vogliamo parlare del solo andata, cioè tu arrivi da Bergamo, quando sei arrivato cosa puoi raccontare a un giovane, adesso ne hai forse qualcuno in più, però insomma a un giovane che decide di fare un salto dall'altra parte dell'oceano? Beh, allora sì, è passato un po' di tempo e ho qualche anno in più, anche qualche ruga in più. Che mi... Beh, ruga no, non esageriamo, dai, sennò qui voglio... si parla della corda nella casa dell'impiccato, quindi sorvoliamo. E mi è venuta proprio facendo America 24, peraltro, ecco. Quindi questa era la piccola frecciata, ma... Beh, a quelli che pensano di partire o vogliono sì, partire... Sì, no, perché qui su America 24 è sempre molta, molta disciplina, e questo... Per qualcuno che magari arriva così fresco dall'Italia può sembrare un po' uno shock, o no? Soprattutto se si arriva in un periodo di elezioni in cui veramente il lavoro è interessante, le notizie sono affascinanti, coinvolgenti, ma ti tengono sveglio fino alle 3 della mattina molto spesso, quindi questo è stato di sicuro affascinante, per cui io penso che a tutti quelli che vogliono partire direi fatelo, perché non si sa mai cosa si trova dall'altra parte. Io ci ho trovato Donald Trump in America, ad esempio, ed è stato affascinante seguire questa figura, ma soprattutto è stato entusiasmante buttarsi in un'esperienza così, come dicevi tu, un po' al buio. Ecco, perché l'idea è che venendo qua si va un po' senza rete. Io credo, questa è una regola che abbiamo sempre avuto qui nel contesto anche della relazione, cioè che i giovani che vengono per fare esperienza non possono aspettarsi, come dire, tutte le sicurezze che possono esserci in dei posti di lavoro normali. Si arriva in America per vivere un'esperienza americana. Ecco, parlaci di questa esperienza americana però. Beh, non è un posto di lavoro normale, anche perché semplicemente per venire in redazione la mattina attraversavo il ponte di Brooklyn in bicicletta ogni giorno. Ci si butta un po' senza paracadute a volte, e io sono arrivato qua peraltro passando fondamentalmente prima da Kiev, perché sono andato prima a Kiev nel 2014 per provare a fare degli articoli e ho conosciuto giornalisti che poi mi hanno portato a Milano, Radio 24, e poi da lì sono arrivato a New York, quindi l'importante è sempre provare a dire sì alla realtà, alle cose che succedono, e poi si sta a vedere. Ecco, tu non eri mai venuto in America prima, quindi è stato, come dire, un doppio effetto. Quando sei sbarcato dall'aereo, i primi giorni, è stata dura? È stata molto dura. Ricordo che, non mi vergogno di dire, che piangevo al telefono quando sentivo i miei genitori o la mia ragazza che sta in Italia. Ero veramente affaticato, anche perché l'impatto con una realtà così anche seria, professionale, non è stato semplice. Però quello che ho scoperto è stato un mondo di esperienze, un mondo di persone. Sono state importanti soprattutto le persone in questa esperienza che ho incontrato. E questo fondamentalmente ha reso la mia esperienza incredibile sotto ogni punto di vista. E l'America mi ha stupito. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione ma apre come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potrete continuare a trovarli su mario24.com. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, siamo in un passaggio, siamo in una staffetta, perché Emanuele Brignoli, colonna di America 24, ci lascia. Arriva Marianna D'Alessio, nuova producer che io saluto e con cui lavoreremo nei prossimi giorni, e spero che la sua avventura sia altrettanto positiva come è stata la tua, caro Emanuele. Ma a te la scelta della canzone, ne abbiamo fatte mille in questi giorni, quindi annunciala. Quindi penso che ne sceglierò una a cavaliere tra l'America e l'Italia, che è Series of Dreams di Bob Dylan, che però è stata rifatta da De Gregori. La prima volta che l'ho sentita ero sul Manhattan Bridge e ho sentito la versione di Bob Dylan. Ora mi ascolterò quella di De Gregori tornando a casa, e devo dire che torno a casa con tutto l'amore possibile per questo paese, anche l'amore per una ragazza che mi riporta a casa, lo devo dire. E per cui sì, una serie di sogni, e io ne ho ancora un po' nel cassetto. Series of Dreams, Bob Dylan. I was thinking of a series of dreams where nothing comes up to the top. Everything stays down where it's wounded. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going!